Thank you. Grazie. Thank you, band. Grazie alla band, al team. Before I speak, there is a very serious and important announcement. Prima di incominciare a predicare questa mattina ho un annuncio molto molto importante da fare. Benny, why don't you just come up here, please? Benny, per piacere, vieni qui. Benny, just come and stand here. Benny is one of my interns. Lui è uno dei miei interns. Just there. And no, there. And he is from Sweden. E lui viene dalla Svezia. And this morning over breakfast. E questa mattina a colazione. He told us that he really likes Italian girls. Ci ha detto che a lui piacciono davvero le ragazze italiane. That they are the most beautiful. Che sono tra le più belle. And he thinks he could marry an Italian. E pensa che lui possa sposare un'italiana. And we have been praying and fasting that Benne would find a wife at some stage. Noi abbiamo pregato e abbiamo digiunato affinché lui potesse trovare una moglie ad un certo punto. Because as you can see, it's very difficult for him to find a wife. Perché come potete vedere è abbastanza difficile per lui trovarne una. So, ladies who are single. Quindi a tutte le ragazze single. Please pray about this. Pregate per questo. And if there is anybody who would like to volunteer, e se c'è qualche volontaria qui, please come to me. Allora, vieni da me. And I will do the introductions. E io vi posso presentare. And we will make IKEA, which is his other name. E quindi noi faremo di IKEA, che è il suo secondo nome. Very, very happy. Lo renderemo molto, molto felice. Thank you, Benny. Grazie. That will teach him never to say anything like that to me again. E questo gli insegna a non dirmi mai più niente di simile. I'm so happy. Sono così felice. I have wondered over the years why I've noticed that some hello, are you? No, okay. Ciao, sei quella delle cioccolate? No, non è. We would have had to stop the sermon to... Oh, you're already married to him. I'm so sorry. Già fosse la volontaria per Benny, no? È sposata già. Oh, yeah, he's much better anyway. E lui è migliore, molto migliore. Do you know I have been telling the same jokes for 30 years? Sapete, sono 30 anni che dico sempre, faccio sempre le stesse battute. And the sad thing is, I still find myself funny. E la cosa triste è che ancora penso di essere simpatico. If no one else laughs, I laugh. Se nessuno ride, a me piace così. How do we prepare for God to use us? Quindi come ci prepariamo affinché Dio ci possa usare, si possa usare di noi? Many of us long for God to use us for his kingdom. Tanti di noi desiderano che Dio si usi di noi per il suo regno. We long to make a difference in this world. Desideriamo fare la differenza in questo mondo. I want to look at Israel's greatest king. Voglio guardare a quello che è stato il più grande re di Israele. Actually, Israel's second greatest king. In realtà, il secondo più grande re di Israele. Because their greatest king is Jesus. Perché il più grande re è Gesù. We're in 1 Samuel chapter 16. E quindi siamo in 1 Samuele al versetto 16. And Saul, who was Israel's first king. E Saul, che è stato il primo re di Israele. Did not trust the Lord. Non si è fidato del Signore. And he tried to make decisions without the Lord. E lui ha cercato di prendere delle decisioni senza il Signore. And so the Lord said to the prophet Samuel, I will choose another to be king of Israel. E quindi il Signore disse al profeta Samuele: io sceglierò un altro re per Israele. And he said to Samuel, go to a little town called Bethlehem. E gli ha detto: vai in questo piccolo villaggio chiamato Bethlehem. Which is the first interesting point. Che è il primo punto abbastanza interessante. He didn't say go to the center of Jerusalem. Non gli ha detto vai nel centro di Gerusalemme. In those days Bethlehem was a tiny little town just outside of Jerusalem. A quel tempo Betlemme era un piccolo villaggio fuori da Gerusalemme. And the Lord said to Samuel, go there. E il Signore disse a Samuele, vai lì. To a man called Jesse. Vai ad un uomo chiamato Jesse. And you will anoint one of his sons to be the new king of Israel. E tu ungerai uno dei suoi figli per essere il re di Israele. So Samuel went to Bethlehem. E quindi Samuele andò a Betlemme. He said to Jesse, bring your sons here. E disse a Jesse, portami i tuoi figli qui. And we join the story in verse 6. E quindi leggeremo la storia dal versetto 6. When they arrived. Mentre entravano, egli pensò, vedendo Eliab, certo, l'unto del Signore è qui davanti a me. So Samuel said, when they arrived, Samuel saw Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. Quello che abbiamo letto, Samuele vede Eliab e ha detto, certamente l'unto del Signore è questo, è davanti a me. And he thought that for a very good reason. E lui ha pensato questo per una buonissima ragione. And the very good reason was this. E questa valida ragione era... In those days it was the eldest son who inherited. Che a quei tempi era il figlio maggiore, più grande, a quello che avrebbe ereditato. It was the eldest son who carried the mantle. E quello più grande che avrebbe portato avanti il mandato. And that biblical principle is very, very good. E quel principio biblico è molto, molto valido. Because modern science tells us that it is the eldest in the family who inherits the best genes. Perché sappiamo che è il più grande dei figli quello ad ereditare i geni migliori. It is the eldest child in the family who is the best looking. È quello più grande, il maggiore dei figli che è quello più bello. Who is the most intelligent? Che è quello più intelligente. Who is the most sophisticated? Che è quello più sofisticato. Do I hear an amen? Posso sentire un amen? Do I hear amen, amen, amen? You can see where I came in my family. Adesso potete capire che numero di figlio sono io. But the Lord said to Samuel. Ma il Signore disse a Samuele. Do not consider. Non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Human beings look on the outward appearance, but God looks at the heart. Gli uomini guardano all'apparenza, ma Dio guarda al cuore. And do you know that is so true today? E sapete, questo è vero anche oggi. In our Instagram world. Nel nostro mondo di Instagram. Where we put the best photos of ourselves. Dove postiamo la nostra migliore foto. We Photoshop. E usiamo i filtri. We make ourselves look thinner. E facciamo sì che da sembrare più magri. Or at least I do. O perlomeno io lo faccio. We give the best appearance. E diamo l'apparenza migliore. Our culture looks at the outward appearance. Perché la nostra cultura guarda, presta attenzione all'apparenza. And not just in physical looks. E non solamente riguardante l'aspetto fisico. Oh, so and so is a celebrity. Oh, Tizio e Caio è una celebrità. This person is so funny. Oh, questa persona è così simpatica. That person has a lot of money. Quella persona è molto ricca. And we judge people by the outward appearance. E noi giudichiamo le persone in base all'esteriorità, all'apparenza. And sometimes we do that in the church if we're honest as well. E se siamo onesti, spesso facciamo la stessa cosa anche all'interno della chiesa. Sometimes I wonder. Molte volte mi chiedo. If the only reason I became a pastor. Se l'unica ragione per la quale sono diventato un pastore. Is because of my good looks. È proprio perché sono così bello. It worries me. E mi preoccupa questo. I think people are blinded by my sex appeal. Credo che proprio le persone siano accecate dalla mia bellezza, dal mio sex appeal. That wasn't a joke. E quella non era una battuta. You laugh when I say a joke. Cioè, voi dovete ridere quando faccio delle battute. But we do, don't we? Ma lo facciamo, non è vero? We judge by gifting. Noi giudichiamo in base ai doni che qualcuno può avere. But God looks at the heart. Ma Dio guarda al cuore. And then Jesse's other sons came through. E poi Jesse, gli altri figli di Jesse si fecero avanti. Abinadab and Shammah and the others. Abinadab e Shammah e tutti gli altri. Seven sons passed by. Sette figli si fecero avanti. And the Lord said, not this one, or this one, or this one. E il Signore disse, non è questo, non è neanche questo, non è neanche questo. And then Samuel is puzzled. E quindi ad un certo punto Samuele incomincia ad essere confuso. Lord, you told me it was one of Jesse's sons. Signore, ma tu mi hai detto che si sarebbe trattato di uno dei figli di Jesse. All of them have passed by. E io ho guardato a tutti loro. And you have said no to each of them. E tu hai rifiutato ognuno di loro. You have said no to each of them. Tu hai detto di no ad ognuno di loro. And then he turns to Jesse and he says, "Are these all the sons you have?" E poi Samuele si rivolge a Jesse e gli chiede, "Ma questi sono tutti i tuoi figli?" And then Jesse says, "Oh, there is still the youngest." E poi Jesse dice, ah no no, c'è il più piccolo. He is looking after the sheep. Lui sta pasturando le pecore. And you get the impression from the Bible that Jesse couldn't even remember his name. E hai quasi l'impressione dalla lettura che Jesse quasi non si ricordasse il nome del figlio. There's still the youngest. What's his name? C'è il più piccolo. Come si chiama? The little one. Sai, quello proprio piccolo, l'ultimo. What did we call him again? Com'è che l'abbiamo chiamato? And Samuel says, bring him, we will not sit down until he comes. E Samuele dice, portalo, perché noi non ce ne andremo prima di vederlo. And then David arrives. E poi Davide arriva. And when David arrives, quando Davide arriva, the Lord says, "This is the one." Il Signore dice, è lui. Do you know the one who was the Lord's choice was the one that the others didn't even invite to the party? Sapete, quello che Dio aveva scelto era proprio colui che gli altri non avevano neanche invitato alla festa. So often the Lord chooses the ones we wouldn't even invite to the party. Tante volte il Signore sceglie coloro che noi neanche inviteremmo alla festa. And in front of his older brothers, David is anointed with oil to be king of Israel. E davanti a tutti i suoi fratelli maggiori, Davide viene unto come re di Israele. What a delicious moment. Ma che momento meraviglioso. In front of your older brothers. Davanti a tutti i fratelli maggiori. Now, I just want you to go on a little fantasy with me for a moment. Ora, immaginiamo qualcosa insieme. Now, don't worry, it's not a sexual fantasy or anything. Ok, non vi preoccupate, non immagineremo niente di sessuale. Imagine is if right now as I am talking to you. Immagina se in questo momento, mentre sto parlando con voi, Boris Johnson, the Prime Minister of England, comes through that door. Boris Johnson, che è il primo ministro dell'Inghilterra, entrasse da quella porta. And he says, stop the meeting. E immaginate se dicesse, fermate l'incontro. And he says, Mike, Her Majesty the Queen has died. E mi dicesse, Mike, la regina, Sua Maestà la regina, è morta. Prince Charles feels he's too old now to become king. Il principe Carlo si sente troppo anziano adesso per diventare re. William wants to spend more time with his children while they are young. William vuole spendere più tempo con i suoi figli adesso che sono piccolini. And there is no way we are choosing Harry. E non, non proprio non c'è storia, non possiamo scegliere Harry. So Parliament have asked me to come here to ask you, Mike Pilavachi, to be king of England. E quindi il Parlamento mi ha chiesto di venire qui per scegliere te, Mike Pilavachi, come prossimo re. I told you it's a fantasy. Ve l'ho detto, stiamo solo immaginando, è una fantasia. If that were to happen, ma se questo succedesse, much as I love you, per quanto io vi ami, do you think I would stay here one second longer? Pensate che mi intratterrei qui un secondo in più? I would be at the airport. Io arriverei all'aeroporto. I would be buying a first class ticket back to London. In un secondo comprerei il biglietto di prima classe per Londra. I would be before nighttime at Buckingham Palace. E prima che si faccia sera sarei lì al Buckingham Palace. Moving into my bedroom. E mi trasferirei nella mia nuova stanza. Do you know what David did? Sapete quello che Davide ha fatto? Just after he was anointed to be king of Israel. Subito dopo essere stato unto per essere il re di Israele. It's amazing. È incredibile. He went back to looking after the sheep. Lui è ritornato dalle sue pecore per prendersi cura di loro. He went back to looking after the sheep. Lui è ritornato a pasturare le sue pecore. And I believe that was the secret to his kingship. E io credo che quello è stato il segreto per il suo regno. Because in those days, looking after sheep, there were three things about looking after sheep. Perché a quell'epoca pasturare le pecore significava tre cose. It was boring. Era noioso. I mean, hour after hour, all you had to do was have sheep to talk to. Cioè, ore ed ore, tutto quello che avevi da fare è parlare con le pecore. And there's only so many conversations you can have with sheep. E ci sono solo poche conversazioni che puoi avere con le pecore. Unless, of course, you're from New Zealand. A meno che non sei della Nuova Zelanda. It was lonely. Era un lavoro che ti faceva stare solo, c'era solitudine. He was a shepherd all on his own. Lui era un pastore e era da solo. He had no one but the sheep to talk to. Non aveva nessun altro tranne che le pecore con cui parlare. And it was hidden. E era nascosto, un lavoro nascosto. Whether he did a good job or a bad job, only the sheep would know. Solo le pecore sapevano se lui stava facendo un buon lavoro o un lavoro mediocre. There was no Shepherd of the Year competition he could win. Non c'era la competizione del miglior pastore dell'anno che lui poteva vincere. And I want to suggest to you this morning. E io voglio suggerirvi questa mattina. That it's in the boring, the lonely and the hidden place that God prepared David to be king. E che è nella solitudine, nelle situazioni noiose e nell'essere solo e che Dio ha preparato il cuore di Davide. The anointing is important. Chiaramente l'unzione è importante. I believe in the anointing of the Spirit. Io credo proprio nell'unzione da parte dello Spirito. But the anointing is not enough. Ma solo l'unzione non è abbastanza. The anointing comes in a moment. Perché l'unzione viene in un momento. The disciples were baptized in the Spirit on the day of Pentecost in a moment. I discepoli sono stati battezzati nello Spirito il giorno della Pentecoste in un istante. But they also had 3 years preparation with Jesus. Ma hanno anche avuto 3 anni di preparazione insieme a Gesù. It's both. È entrambe. Now we all love the moment. Ora tutti quanti noi amiamo l'istante. But we're not so keen in our culture on the preparation. Ma nella nostra cultura non siamo molto propensi alla preparazione. Just think about this. Pensiamoci un attimo. David was Israel's great worship leader and songwriter. Davide era il più grande adoratore di Israele e colui che scriveva canzoni. Where do you think he learnt it? Dove pensate abbia imparato questo? Practicing his harp at 3 o'clock in the morning while the sheep were asleep. Suonare l'arpa alle 3 di notte mentre le pecore dormivano. And where do you think he wrote his most famous worship song? E dove pensate abbia scritto le sue canzoni d'adorazione più famose? The Lord is my shepherd, I shall not want. Il Signore è il mio pastore, io non avrò timore. I don't think he wrote that song in a palace. Io non penso che abbia scritto quella canzone nel palazzo. I think he wrote it in a field while the sheep were asleep. Ma credo che lui abbia scritto quella canzone sul campo mentre le pecore dormivano. David learned to be a warrior, a fighter by looking after the sheep. Davide ha imparato ad essere un combattente mentre si prendeva cura delle pecore. In the next chapter we see the confrontation with Goliath. Nel capitolo successivo vediamo la sua battaglia con Golia. And Goliath comes out and he's even bigger than I am. E Golia si presenta e lui è più grande di me. And all the Israelite army are scared of him. E tutti gli israeliti sono spaventati da lui. And then David, who's a boy, he goes to King Saul and he says, I'll fight him. E poi abbiamo Davide che è un ragazzino che va dal re Saul e dice vado io a combattere. And Saul says, what are you talking about? E Saul dice ma cosa stai dicendo? Have you seen the size of him? Ma l'hai visto? L'hai visto quanto è grande? And you are a little boy. E tu non sei che un ragazzino. What makes you think you can beat the giant? Che cosa ti lascia pensare che tu puoi vincere il gigante? Do you know what David says? E sapete quello che Davide ha detto? Your servant has been practicing kung fu. Ha detto il tuo servo si è esercitato al kung fu. He doesn't say that, does no, he? No, non dice questo, è vero? Do you know what he says? Lo sapete cosa dice? He says your servant has been looking after sheep. Dice il tuo servo si è preso cura delle pecore per tutto questo tempo. Now I don't know what qualifications you need to enter into the Italian army. Ora io non lo so quali sono le qualificazioni, i titoli di cui tu hai bisogno per entrare nell'esercito italiano. But if you apply to the British army, ma se tu ti iscrivi, diciamo, all'esercito britannico, and in your interview they ask you why do you think you can be a good soldier? E nel tuo colloquio loro ti chiedono perché pensi tu possa essere un buon soldato? If you say I've been hanging out with sheep. Se tu dicessi no, me la sono fatta con le pecore. You're not going to get in. Non ti prendono. But then David explains. Ma poi Davide spiega. When I was looking after the sheep, mentre mi stavo prendendo cura delle pecore, and a lion or a bear came to attack the sheep, e un leone o un orso si sono presentati per attaccare le pecore, I killed the lion and the bear. Io li ho uccisi entrambi, sia il leone che l'orso. This Philistine will be like them. Questi filistei saranno come loro. He learned to be a warrior. Lui ha imparato ad essere un guerriero. In the lonely, the boring, and the hidden place. Nella solitudine, nei posti nascosti e nei posti noiosi, nella noia. And that's where he learned to be shepherd of Israel. Ed è così che lui ha imparato ad essere il pastore di Israele. Do not despise the day of small things. Non sottovalutare i giorni degli inizi piccoli. And we live in an instant culture. E noi viviamo nella cultura dell'istante, dell'attimo. Where we want everything immediately. Dove vogliamo tutto immediatamente. We're the Big Mac culture. Noi siamo la cultura del Big Mac. We are the McDonald's generation. Noi siamo la generazione del McDonald's. And when I go to McDonald's. Quando vado al McDonald's. And I order a Big Mac. E ordino un Big Mac. If it takes longer than 90 seconds to get it. Se ci mettono più di 90 secondi. I'm complaining. Io mi ritrovo che mi lamento, a lamentarmi. This is supposed to be fast food. Cioè questo dovrebbe essere il cibo veloce, lo devi avere veloce. What kind of fast food is this? Ma che tipo di fast food siete? We should call it slow food. Dovremmo chiamarvi il lento cibo, un lento ristorante. What are they doing? Killing the cow? Ma che cosa stanno facendo? La stanno uccidendo adesso la mucca? We complain if we don't have everything we want yesterday. Noi incominciamo a lamentarci non appena non riceviamo quello che volevamo ieri. It's got crazy. In England, you can actually order something on Amazon and it comes in 2 hours. È incredibile, in Inghilterra puoi ordinare qualcosa su Amazon e puoi ricevere il tuo ordine solo dopo 2 ore. It's mad. Cioè, è pazzesco. And let me tell you. E lasciate che vi dica questo. The Big Mac. Il Big Mac. It's quick. È veloce. It's cheap. E non costa tanto. And it tastes like plastic. È da di plastica. It's not healthy. Non è sano. It has no good nutrition. Non ha alcun elemento che ti nutre. It clogs up your veins and your arteries. E blocca proprio le tue vene. That's what happens with very fast food. E questo è quello che succede con il fast food. But there is a restaurant. Ma c'è un ristorante. 30 minutes from my house. Che dista solo 30 minuti da dove abito io. Called the Sahara Lounge. E si chiama il Sahara Lounge. It does the best Lebanese food you can imagine. E lì si può mangiare il cibo libanese più buono del mondo. It is my second home. E quella è proprio la mia seconda casa. And when I go there, as soon as I walk in. E quando vado lì, non appena entro nel ristorante. George, the head waiter, before he sees me, he hears my voice as I'm walking up the stairs. George, che è il responsabile di tutti i camerieri, mi vede e subito va sopra. And he says, "Is that my friend Michael come to see me?" Subito mi raggiunge e dice, "Ma è Mike il mio amico che è appena arrivato?" And I say, "Your friend Michael is here, George." E io dico, "Sì, sì, il tuo amico Mike è qui, George." And he says, "Would you like your usual table?" E mi chiede, "Vuoi il tuo solito tavolo?" I say, "Of course." Certamente. He gives me the menu. E quindi poi mi dà il menu. And he says, "Would you like to choose something or would you like your usual?" E poi mi chiede, "Vuoi scegliere qualcosa o vuoi il tuo solito, quello che ordini di solito?" And I say, "George, I will have my usual." E io gli dico, "No, George, prendi il solito." Which is everything on the menu. Che è praticamente tutto quello che è sul menu. And George and I, we are now best friends. E adesso George è proprio il mio migliore amico. And they do amazing food. E lì si mangia veramente benissimo. But let me tell you. Ma lasciate che vi dica questo. Now listen carefully to this. Ascoltate attentamente. Because you are listening to a world expert now. Perché voi state ascoltando un esperto di fama mondiale. Of all the delicious food. Di tutto il cibo delizioso. The best. Il migliore. The most amazing. Il più buono. Is the Sahara Lounge chicken. Quello che puoi ordinare lì è il Sahara Lounge, il pollo del Sahara Lounge. It melts in your mouth. Si scioglie in bocca. It, when I put it in my mouth, I think maybe I died and I've gone to heaven. Quando assaggio il primo boccone, penso forse sono morto e mi trovo in paradiso. It's what heaven must be like. Questo è come è come assaporare il paradiso. And it's tender and it's wonderful. Ed è tenero ed è buonissimo. Now I know what some of you are thinking. Ora so quello che alcuni di voi stanno pensando in questo momento. You're thinking, what's he talking about? Stai pensando, ma che cosa sta dicendo? Chicken is chicken. Il pollo è pollo. No! No, non è così! No! Why are you laughing? and get down here. This is from the heart. Perché viene tutto dal cuore. Chicken is not chicken. Non tutti i polli sono uguali. There is chicken. Perché c'è pollo. And then there is Sahara Lounge chicken. E poi c'è il pollo del Sahara Lounge. It's okay, I'm back. Okay, sono ritornato, va tutto bene. And one day I asked George. E un giorno ho chiesto a George. I said, George, what does chef do to this chicken? Ho detto, George, ma che cosa li fa questo chef Please a questo pollo? Me. Per piacere, raccontami il tuo segreto. And George said, if I told you the secret recipe, I would then have to kill you. E George mi ha detto, se ti racconto questo segreto, poi ti devo uccidere. But George said to me, ma lui poi mi ha detto, chef takes the chicken, lo chef prende il pollo, and he marinates it in a secret blend of herbs and spices, olive oil, and I believe with all my heart, Greek yogurt. E c'è una marinatura nell'olio d'oliva e nelle spezie, e io credo con tutto il mio cuore c'è anche dello yogurt greco. For 3 days and 3 nights. Per 3 giorni e 3 notti. And then he cooks it slowly for a long time. E poi lo cucina lentamente per tanto tempo. And that is how it becomes so perfect. Ed è per questo che poi è così perfetto. Here is the message of this morning's sermon. Questo è il messaggio di questo messaggio di questa predica stamattina. God does not want you to be a Big Mac Christian. Dio non vuole che tu sia un cristiano come il Big Mac. He wants you to be a Sahara Lounge chicken Christian. Ma lui vuole che tu sia come il Sahara Lounge pollo, un credente come il pollo del Sahara. Mamma mia. He wants you to taste good to a world out there who is desperate for something deeper. Lui vuole che il tuo sapore sia il migliore per le persone che fuori stanno aspettando di assaggiare. He's not looking for superficial cheap Christians. Lui non sta cercando dei cristiani economici e superficiali. The world doesn't need any more plastic, cheap McDonald's Christians. Il mondo non ha più bisogno di credenti che danno di plastica come il cibo del McDonald's. He's looking to make you and me into Sahara Lounge chicken Christians. Ma lui vuole renderci buoni come il pollo del Sahara Lounge. So when the world meets us, così che quando il mondo ci incontra, they taste something wonderful. Loro possono assaggiare qualcosa di meraviglioso. They taste a bit of Jesus through us. Possono assaggiare un poco di Gesù attraverso di noi. And so he wants to take you. E quindi lui ti vuole portare. And he wants to marinate you. E vuole fare una marinatura con te. And then he wants to cook you slowly. E poi ti vuole cucinare lentamente. And he does that. E lui lo fa. In the boring, the lonely, and the hidden place. Nei posti noiosi, solitari e nascosti. True spirituality takes time. Perché la vera spiritualità prende del tempo. It doesn't come instantly. Non succede in maniera istantanea. Do not despise the lonely, the boring, and the hidden place. Non disprezzare i posti solitari, noiosi e nascosti. For God is doing using that place to do heart surgery on you. Perché Dio sta usando quei posti per fare un'operazione chirurgica in te. He's marinating you. Lui ti sta marinando il tuo cuore. So that the flavor of Jesus goes all the way through you. Così che il sapore di Gesù ti possa inondare tutto di te. That's what the fruit of the Spirit is. Questo è quello che è il frutto dello Spirito. The fruit of the Spirit is the character of Jesus. Il frutto dello Spirito è il carattere di Gesù. And fruit doesn't appear in a moment. E sapete, il frutto non appare in un istante. It grows over a season. Ma matura nel passare delle stagioni. I mean, you don't see an apple tree in the spring going. Cioè, non possiamo vedere un melo nella stagione della primavera che è così. I will produce apples now. E dice, ok, adesso produrrò delle mele. It's slowly. No, è succede lentamente. It stands there in the sunshine. L'albero sta lì alla luce del sole. It takes nutrients from the roots. E prende nutrimento. And after a season. E poi dopo una stagione. It's ripe. Porta frutto. I sometimes get impatient with my apple tree. Io alcune volte divento impaziente con il mio albero di mele. And I always end up picking an apple in June. E mi ritrovo sempre a raccogliere una mela a giugno. And eating it. E poi la mangio. And it's bitter. Ed è amara. And it's sour. Ed è aspra. And I go, ugh. But when I pick it in September, ma quando la colgo a settembre, it's juicy, è succosa, and it's sweet, ed è dolce. Don't rush it. Quindi non andare di fretta. I finish with this story. E finirò con questa storia. Let me make sure I've got the dates. 28 years ago, 28 anni fa. I was invited to Finland to speak at a youth camp. Sono stato invitato in Finlandia per parlare in un campeggio giovanile. And it was a campsite by a lake. E il campeggio si trovava vicino un lago. Near a town called Jyväskylä. In una città che si chiamava Jyväskylä. And on the second day, a boy came to me. He was 16 years old. E il secondo giorno di questo campeggio, un ragazzino, un sedicenne, viene da me. And he said, "Can I talk to you?" E mi chiede se poteva parlare con me. And I said, "Okay." And then he said, "Could we go somewhere quiet where no one can hear us?" E io ho detto, "Ok." E lui mi ha chiesto, "Possiamo andare in un posto tranquillo dove magari nessuno ci può ascoltare?" So I said, "There's a bench over there by the lake, let's sit there." Ho detto, "Sì, c'è una panchina vicino il lago, possiamo andare a sederci lì e parlare." And he told me his story. Quindi poi lui mi ha raccontato la sua storia. And it was hard. È una storia dura, triste, difficile. He told me that up until the age of 9, his father was alcoholic. Mi ha raccontato che da quando lui aveva 9 anni fino a suo padre è stato un abusato di alcol. And would regularly come home drunk and beat him and his mother. Quindi sempre ritornava a casa ubriaco e picchiava sia lui che la mamma. And he said to me, "My name is Timo." E mi ha detto, "Io mi chiamo Timo." And I wasn't big enough to protect my mother or myself from my father's attacks. E non ero grande abbastanza da proteggere me stesso e mia madre dagli attacchi di mio padre. And then he said, when I was 9, one day my father left home. E poi quando avevo 9 anni mio padre se n'è andato via di casa. And he has never come back. E lui non è mai più ritornato. And to this day, I don't know if he's dead or alive. E fino, cioè, anche adesso non so se lui sia in vita o meno. And half of me hates him for what he did to me and my mum. e la metà di me lo odia per quello che ha fatto a me e a mia madre, to beat us and then to leave us, per averci picchiato e poi per averci abbandonato. But the other half of me longs to know if he's okay. Ma l'altra parte di me desidera sapere se lui sta bene. And he said, I can't stand it when Christians talk about God is your father. E dice, io non sopporto quando i credenti parlano di Dio in quanto padre. Because my only experience has been a bad one. Perché la mia unica esperienza con mio padre è stata brutta. And he said, I'm depressed. And I'm depressed and I have no future. E lui mi ha detto, io sono depresso e non credo di avere alcun futuro. And I can't feel any emotions. E non riesco a sentire alcuna emozione. I listened to him and I prayed with him. Io l'ho ascoltato e ho pregato per lui. The next afternoon he asked if we could talk some more. Il pomeriggio seguente mi ha chiesto se potessimo parlare insieme da capo. And he told me more of his story. E mi ha raccontato di più della sua storia. And then he said to me, I have made a vow to myself, a promise. E mi ha detto, io ho fatto una promessa a me stesso. That I will never get married or have children. Che non mi sposerò mai e mai avrò dei bambini. Because I have my father's DNA. Perché io ho il DNA di mio padre. And I am afraid that I could do to my wife and children what my father did to my mother and me. E ho paura di poter fare a mia moglie e ai miei figli quello che mio padre ha fatto a me e a mia madre. And I don't want to risk that. E quindi io non voglio rischiare questo. I listened to him, we prayed. L'ho ascoltato e abbiamo pregato. The next afternoon was the last afternoon. At the end of the afternoon they were taking me to the airport for me to fly home. Il pomeriggio seguente, ed era l'ultimo giorno, loro mi stavano accompagnando in aeroporto. And this time Timo asked to talk to me one more time. E Timo mi ha chiesto di parlare insieme ancora una volta. So we went and sat on the bench. E quindi da capo siamo andati, ci siamo seduti sulla panchina. And there was a cool breeze blowing that afternoon from the lake. E c'era una leggera, fresca brezza che veniva dal lago quel giorno. And I was wearing my favorite jumper, my favorite cardigan. E io indossavo in quell'occasione la mia felpa preferita. I loved it. Mi piaceva tantissimo. It was pure white wool. Perché era di pura lana bianca. It was thick. Era spesso. I bought it for a very high price in Norway. E l'ho pagata un sacco di soldi in Norvegia. It was beautiful. Era bellissimo questo jumper. And best of all, it was my size. E la notizia migliore è che era della mia taglia. It was extra, extra, extra medium. Era extra, extra media. And Timo was just wearing a t-shirt. E Timo invece indossava solo una maglietta. And as we sat down, after a while he said, oh, it's a bit cold, should we go inside? Dopo un po' di tempo che eravamo seduti, lui dice, fa un po' freddo, magari andiamo dentro. And then I felt the Lord say to me, e poi ho sentito il Signore dirmi, lend him your jumper. Prestali la tua felpa. And my first reaction was no. E la mia prima reazione è stata no. It's my jumper, let him get his own jumper. È la mia felpa. But you know what it's like with Jesus. Ma sapete come funziona con Gesù. he keeps on. Lui continua a chiedertelo. So he kept saying to me, lend him your jumper. E quindi da capo mi ha detto, prestali la tua felpa. So I said, Timo, if you're cold, why don't you borrow my jumper? E gli ho detto, Timo, se ti fa freddo, tieni, ti presto la mia felpa. And I took it off and he put it on. Quindi me la sono tolta e lui invece l'ha indossata. And he said, are you sure? Won't you be cold? E mi ha detto, ma sei sicuro? Non è che poi fa freddo a te? And I said, I have inner layers of which you know not. E ha detto, no, io ho degli strati interni che non mi fanno sentire freddo. I have central heating. Ho proprio un riscaldamento centrale dentro. And you know, he sat there with my jumper and he looked ridiculous. E quindi lui era lì seduto con la mia felpa indosso e era ridicolo. The jumper went down here on him. Perché la felpa era lunga fino alle sue ginocchia. It was like a tent. Era tipo stesse indossando una tenda. You couldn't see his hands. Non potevi vedere le sue mani. But after a while, when we were talking, I saw him going like this. Ma dopo un po' stavamo parlando, l'ho visto che faceva così. And he said, "This jumper feels really nice." E mi dice, questa felpa, si sta proprio bene. And then to my horror. E poi al mio con terrore, orrore. The Lord said to me, "Give him your jumper." Il Signore mi ha detto, regalali la felpa. At this point, I seriously considered becoming a Buddhist. E a questo punto ho realmente pensato di diventare un buddista. I said, "Lord, it's ridiculous. It doesn't even fit him." Ha detto, ma signore, è ridicolo, non gli va neanche bene, gli va troppo grande. It's my favorite jumper. Ed è la mia felpa preferita. Why can't I give him some socks or something? Perché non gli posso regalare delle calze? It cost me a fortune. E questa felpa mi è costata pure tanto. But Jesus kept saying, "Give him your jumper." Ma Gesù ha continuato a dirmi, regalagli la felpa. So I said, "Timo, if you like the jumper, you could keep it." E quindi ho detto, Timo, se ti piace questa felpa, tu puoi tenertela. And he said, "Are you serious?" E lui dice, ma veramente? And I said, "Yes, I'm serious." Sì, davvero. And then they called me, and I went to the airport, and I left. E quindi poi mi hanno chiamato, sono andato in aeroporto e sono partito. That was 28 years ago. Questo è successo 28 anni fa. 12 years ago, I was back in Finland. 12 anni fa sono ritornato in Finlandia. Speaking at the pastors conference for the evangelical churches of Finland. E ho parlato a questa conferenza dei pastori delle chiese evangeliche in Finlandia. And when I arrived, I was introduced to my translator. E quindi quando sono arrivato mi hanno presentato a chi avrebbe tradotto per me. And I sat down with my translator and we went through my talks. E quindi mi sono seduto con il traduttore e abbiamo un po' visto gli appunti delle prediche. Just in case there were any phrases that didn't translate well into Finnish. Giusto per controllare se c'erano alcune frasi che non potevano essere tradotte bene bene in finlandese. And I need to say at this point. E a questo punto devo necessariamente dire that I spend almost half my year traveling in other countries. Che ho speso tantissimi anni nel viaggiare e visitare altri posti. And there are a lot of wonderful things about that. E ci sono state tantissime bellissime cose riguardo questi viaggi. I have visited the best restaurants in the world. Ho visitato i migliori ristoranti del mondo. But there's one thing that isn't so good. Ma c'è una cosa che non funziona molto bene. Nearly everywhere I go, quasi dovunque io vada, there is always somebody who wants to show me photos of their family. C'è sempre qualcuno che vuole mostrarmi le foto della sua famiglia. And they say, "Come and look at photos of my wife and children." E mi dicono, vieni che ti faccio vedere le foto di mia moglie e dei miei bambini. And I want to say, "Look at me." E io voglio dire, ma guardami. Is there anything about me that suggests that I want to look at photos of your family? C'è qualcosa di me che ti fa capire che ho voglia proprio di vedere le foto della tua famiglia? But of course I don't say that. Però certamente non lo dico. And my translator, he said to me, "Would you like to look at photos of my wife and two little girls?" E il traduttore in quell'occasione mi ha detto, "Vuoi vedere le foto della mia famiglia?" And I thought, "Here we go again." E ho pensato, ecco, ci siamo ancora una volta. So I said, "Oh, all my life I have been waiting for this moment." Ho detto, sì, certamente, da una vita sto aspettando questo momento. "Please show me." Veramente, per piacere, mostramele queste foto. And he said, "This is my wife." E lui mi dice, questa è mia moglie. "Isn't she beautiful?" Non è bellissima? And I looked at the photo. E ho visto la foto. And she was okay. Ed era sì carina. But I said, "Oh my word." Però ho detto, mamma mia. How did you manage to get such a beautiful wife? Ma come hai fatto a trovare una moglie così bellissima? And he was very pleased. E lui era molto compiaciuto di questo. And then he said, let me show you the photo of my two little girls. Ha detto, aspetta che adesso ti faccio vedere la foto delle mie due bambine. And he showed me the photo. E quindi poi mi ha mostrato la foto. And again, you know, they were okay. Da capo sì, erano due bambine carine. But I said, please. Please take the photo away. Ma ho detto per piacere, togli via queste foto. It is blinding my eyes. Perché proprio la bellezza mi sta accecando gli occhi. I can't tell, are they two little girls or are they angels in disguise? Non riesco a distinguere, sono due bambine o sono due angeli nel cielo? And so we finished. E quindi poi quel momento si è concluso. I spoke at the conference, he translated. Ho parlato alla conferenza, lui ha tradotto per me. Before the last meeting, he said to me, before you speak, I want to say something. E prima dell'ultimo incontro mi ha detto, prima che incominci a predicare, ti voglio dire una cosa. I thought, I'm sure that's not how it's supposed to work. E ho pensato, ma non dovrebbe proprio funzionare così. But okay, if you want to. Ok, va bene. And he got up. E quindi il traduttore... And he spoke in Finnish and in English so I could understand. E ha dato un messaggio in finlandese e in inglese così che io potessi capire. And he said this. E ha detto questo. He said, my name is Timo. Mi chiamo Timo. I am 32 years old. E ho 32 anni. 16 years ago, when I was 16, I attended a camp by a lake. 16 anni fa, io avevo 16 anni e mi trovavo in questo campeggio per i giovani vicino a un lago. Mike was the speaker. E Mike era il predicatore. I don't think he remembers me. Non penso che lui si ricordi di me. And I spent 3 afternoons telling him about my alcoholic father. E per 3 pomeriggi di seguito abbiamo parlato e io gli ho raccontato di mio padre che abusava alcol. Who beat me until I was 9 and then disappeared. Che fino a quando avevo 9 anni non ha fatto altro che picchiarmi e poi mi ha abbandonato. And I told him how I had no hope for the future. E gli ho detto di come io non avevo, ero disperato, non avevo speranza per il futuro. That every day my life felt empty. Che tutti i giorni la mia vita era vuota. And I told him that I had made myself a promise that I would never get married and have children. E gli ho detto che avevo fatto una promessa a me stesso che non mi sarei mai sposato e mai avrei avuto dei figli. And then on the last afternoon, he lent me his jumper because I was cold. E poi nell'ultimo pomeriggio che abbiamo trascorso insieme, lui mi ha regalato la sua felpa perché io avevo freddo. And when I told him I liked his jumper. E quando gli ho detto che mi piaceva proprio questa felpa che mi aveva prestato. He gave it to me. Lui me l'ha regalata. And then he went back to England. E poi se n'è andato in Inghilterra. And he said, I never thought I would see him again. E lui ha detto che non avrebbe mai pensato di rivedermi. And what Mike doesn't know is that that jumper changed my life. E quello che Mike non sa è che quella felpa ha cambiato la mia vita. Because all my life, no one had ever given me a present. Perché io non avevo mai ricevuto un regalo in tutta la mia vita. My dad never bought me a present for Christmas or my birthday. Mio padre non mi aveva mai comprato un regalo né per Natale né per i compleanni. And after he left, my mother and I agreed that we knew we loved each other, but we wouldn't bother with presents because we were too poor. E dopo il suo abbandono, io con mia madre ci siamo detti che chiaramente ci volevamo tantissimo bene, ma non ci saremmo fatti dei regali perché vivevamo in una condizione economicamente precaria. And then as I was complaining that I had no hope and felt no love. E mentre mi stavo lamentando che non mi sentivo amato e non avevo alcuna speranza per il futuro. This stranger gave me the gift of his jumper. Questa persona qui che non mi conosceva mi ha regalato la sua felpa. And then he left. E poi se n'è andato. And God spoke to me. E Dio mi ha detto, mi ha parlato. And he said, you see, there is hope. E mi ha detto, lo vedi? C'è speranza. I can bring people into your life. Io posso portare persone nella tua vita who can bless you. Che ti possono benedire. Don't give up, Timo. Quindi non ti arrendere, Timo. I, the Lord, have shown you my love through my servant. Io sono il Signore e ti ho mostrato il mio amore attraverso il mio servo. And Timo said, I decided to have hope. E quindi Timo ha detto che in quell'istante ha deciso di ritornare ad avere speranza. And I drew close to God. I drew close to God and people prayed for me. E quindi mi sono avvicinato a Dio e persone hanno pregato per me. And now I am married to a beautiful wife. E adesso sono sposato con una donna bellissima. I have two wonderful daughters. Ho due bellissime bambine. And my life is changed. E tutta la mia vita è cambiata. And I promise you this is true. E ve lo garantisco, questo è vero. Then he reached down into a bag. Poi si è abbassato verso una borsa. And he took out the jumper. E dalla borsa ha uscito la felpa. And he said, Mike, I never thought I would see you again. E mi ha detto, Mike, io mai avrei pensato che ti avrei rincontrato. But I have kept this jumper all these 16 years. Ma ho conservato questa felpa per tutti questi 16 anni. Today I give the jumper back to you. Oggi te la voglio restituire. It has done its job. Perché ha fatto il suo lavoro. I have that jumper in my bedroom. E io ho quella felpa nella mia camera. It's in my chest of drawers. È nei miei cassetti, nel mio cassetto. I will keep it till the day I die. E la conserverò fino al giorno che morirò. I had no idea. Io non avevo idea. I was on the plane home that first time from Finland complaining that I had to give my jumper away. Io mi ero in aereo, stavo ritornando dalla Finlandia e mi stavo lamentando che non avevo più la mia felpa con me. I had no idea what God was doing. Ma non avevo idea di quello che Dio stava facendo. No one knew. Nessuno lo sapeva. I didn't stand up in meetings and say, I have given my best jumper to this Finnish boy. Non ho poi predicato e detto alle folle, ho dato questa felpa a questo ragazzino. In the lonely, the boring and the hidden place, God was at work. Nei posti solitari, noiosi e nascosti, Dio lavora. Do not despise the day of small things. Quindi non disprezzare il giorno degli inizi piccoli. God wants to use us when nobody is looking. Perché Dio ci vuole usare proprio quando nessuno ci sta guardando. Just when he is looking. Ma solo quando lui ci sta guardando. So if you feel you're in the lonely, the boring and the hidden place. Quindi se tu ti senti che sei in un posto nascosto, in un posto solitario e in un posto noioso. If you feel like you're looking after a few sheep and nobody is noticing you. Se tu ti senti come se stessi pasturando qualche pecora e nessuno ti sta guardando. Be encouraged. Sii incoraggiato. God is at work. Perché è Dio che sta lavorando. He is making you. E lui ti sta formando. He is preparing you. Lui ti sta preparando. He is marinating you. Lui sta facendo una marinatura con te. And he will cook you slowly. E lui ti sta cucinando piano piano. So that you taste great. Così che tu possa avere un gusto meraviglioso. To a world that is looking for authentic Christianity. Per un mondo che sta cercando una cristianità autentica. Do not be a Big Mac Christian. Non essere un cristiano come il Big Mac. Be a Sahara Lounge chicken Christian. Ma sii un cristiano come quel Sahara Lounge pollo. Well done. Well done. All right. We're going to pray now before we worship and finish. E quindi adesso pregheremo prima di concludere questo incontro. And we won't be very, very long. Non spenderemo tantissimo tempo. Because I'm going to a nice restaurant for lunch. Perché vado in un ristorante per il pranzo. It is a nice restaurant, isn't it? È vero che è un buon ristorante. Huh? It's a Sahara Lounge Modugno restaurant. Sahara Lounge Modugno restaurant. Okay. Do they do chicken? Fanno il pollo. They do. Lo fanno. Seriously, let's ask Jesus to meet us. Dai, chiediamo a Gesù di incontrarci. This time, let's stand together. E questa volta, perché non ci alziamo insieme? Thank you, Jesus. Grazie Gesù. That you love us. Perché tu ci ami. That you know what you're doing. Perché tu sai quello che stai facendo. And that with you nothing is wasted. E che con te niente è perso. Thank you, Jesus. Grazie Gesù. That you prepare us. Che tu ci prepari. As you prepared the disciples. Come hai preparato i discepoli. As you prepared Joseph when he was in prison. Come hai preparato Giuseppe quando era in prigione. As you prepared David when he was looking after sheep for years. Come hai preparato Davide mentre pasturava le pecore da anni. You prepare us to be a blessing. Tu ci prepari affinché possiamo essere una benedizione. To the world around us. Per il mondo che ci circonda. Now send your spirit. Ora manda il tuo spirito. Holy Spirit, would you move in this place? Spirito Santo, ti puoi muovere in questo tra di noi. We long for you. Noi ti desideriamo. Thank you, Lord. Grazie, Signore. We wait for you now. E noi ti aspettiamo adesso. Now just wait for a moment. Adesso aspettiamo per un po'. He is worth the waiting. Perché vale la pena aspettarlo. Now, as we wait, I just feel this morning we want to pray first for a particular group of people. Ora, mentre aspettiamo, sento che questa mattina dobbiamo pregare per un gruppo in particolare. Hey, and we're all going to pray for each other, yeah? E pregheremo l'uno per l'altro, va bene? I'm going to ask some of you to be very brave and honest. E chiederò a qualcuno di voi di essere veramente onesto e coraggioso. Some of you feel you have been in the boring, the lonely, and the hidden place for a long time. Qualcuno di voi si sente che per tanto tempo è stato in quel posto noioso, solo e nascosto. And it's like almost you gave up. Ed è quasi come se ti stai arrendendo. That things could be really good. Che non ci credi neanche più che le cose possono andare veramente bene. And it's felt. Life has felt boring, lonely, and hidden. E la vita ti è sembrata solitaria, nascosta e noiosa. And it may be this morning for the first time you're thinking, oh my goodness, maybe you are in this, Lord. E forse solo stamattina ti sei reso conto e ti sei detto, wow, Gesù, allora forse tu stai lavorando in me. I believe with all my heart that he is. Io credo con tutto il mio cuore che lui sì, sta lavorando in te. If you know that is you, se sei tu, could you come forward, 'cause we would love to pray for you. Puoi venire avanti perché vogliamo pregare per te. If you're in the middle of the row, say excuse me. Fatti spazio e vieni. Okay, that's it. Just come. Just come. Just come. Sì, venite. That's it. Venite. That's it. Well done. Well done for being brave. Bene, grazie per il vostro coraggio. You know this is a time for being honest in the church. Sapete, questo è il tempo di essere onesti in chiesa. And you haven't come forward, but this lady in the front row, you're just sitting down now. Okay, tu che ti stai sedendo, non sei venuta avanti. Could you stand up again? Ma puoi alzarti. God's spirit is resting on you. Perché lo Spirito di Dio è su di te. And he wants to do more in and through you than you can believe. E lui vuole fare di più in te e attraverso di te, più di quanto tu pensi. And you serve behind the scenes. E tu sei una che servi dietro le quinte. But sometimes you doubt that God could really make a difference through you. Ma alcune volte tu dubiti che Dio possa veramente fare la differenza attraverso and di te. And he's given you a really wonderful heart. E lui ti dà un cuore meraviglioso. And forgive me if this is wrong, but there's been some pain in your life. E perdonami se mi sto sbagliando, ma c'è stato del dolore nella tua vita. But Jesus is with you. Ma Gesù è con te. And he's now beginning to fill you. E adesso lui incomincia a riempirti. And he's going to make you such a blessing. E lui ti renderà una benedizione meravigliosa. Holy Spirit, would you come? Spirito Santo, vieni. Maybe those next, someone just put a hand on her shoulder. And for these folk, others come and pray. E per tutti gli altri, veniamo a pregare, l'interns, la squadra, che venga a pregare. Spirit of God, would you come upon our friends? Spirito di Dio, puoi venire su questi nostri amici. And for some of them, they felt that nobody has noticed them. E per alcuni di voi, vi siete sentiti come se nessuno vi avesse mai notato. Some of you, it feels like nobody's noticed you. Vi sentite come se siete che nessuno sa che voi ci siete. And Jesus wants to tell you right now, he has always been there. E Gesù ti vuole dire che lui c'è sempre stato. Thank you, Lord. Meet with them, more of your presence. Grazie, Signore. Incontrali di più della tua presenza. Now, don't worry about tears. Ora, non it's ti preoccupare okay. Se ti viene da piangere. Is there someone who could just pray for this lady here? That's it. Thank you, Lord. And I think there is somebody else here. Ora, credo che ci sia qualcun altro qui. You were in leadership in another church, and it broke your heart. Tu eri coinvolto nella leadership in un'altra chiesa e questo ha portato molto dolore nel tuo cuore. You were attacked and you were removed from leadership. Sei stato attaccato e poi sei stato anche rimosso dalla tua posizione di leadership. And it's like you feel I never want to be there again. Ed è come se tu pensi non voglio più essere lì in quella situazione da capo. I never want that to happen to me again. Non voglio che mai più mi capiti una cosa del genere. And it's still painful. E ti fa ancora male. But at the same time you know there's a call to leadership. Ma allo stesso tempo tu sai che c'è una chiamata alla leadership sulla tua vita. But you're afraid of history repeating itself. Ma tu hai paura che la storia si ripeta. And just this morning as I was speaking you were thinking about that. E questa mattina mentre io predicavo tu hai pensato proprio a questo. I'm going to ask you to be very very brave. Ti chiedo di essere molto coraggioso. Where are you? Dove sei? Who is that? Dove sei? Chi è? Jesus wants to meet you. Perché Gesù ti vuole incontrare. And he wants to heal you. E lui ti vuole guarire. And he wants you to get back. E lui vuole che tu ritorni into what he's called you to. In quello che lui ti chiama a fare. Are you here? Where? Is that you? No, he's just got his hand up. Are you here? Is sei that qui? You? Well done for being brave. Grazie per il tuo coraggio. Well done. Grazie. Well done. We just want to get others to come and lay hands on you. Vogliamo che si preghi per voi. He loves you. Lui ti ama. And it's like an arrow went through your heart. Ed è come se una freccia abbia perforato il vostro cuore. And it broke your heart. E l'ha rotto il vostro cuore. And now he wants to come to the pain. Ma adesso lui vuole guarire questo dolore. And he wants to bring healing to the pain. E vuole portare guarigione. Now, don't be afraid of what is happening. Ora non essere spaventato da quello che sta succedendo. Jesus is here. Perché Gesù è qui. I'm going to ask the band to come. E vorrei chiedere al team di venire, team di lode. Okay, and what is happening here is healing. Quello che sta succedendo qui è guarigione. For some of these, they've been in a lonely place for a long time. Per alcune di queste persone, loro si sono ritrovate in un posto solitario per tanto tempo. And this is a safe place. E questo invece è un posto sicuro. Because God's love is here. Perché l'amore di Dio è qui. And in the place of God's love. E dove c'è l'amore di Dio? It's safe to let out the pain. Allora è sicuro. Fa bene uscire, far uscire il dolore. We bless you, Lord. Noi ti benediciamo, Signore. We bless you, Lord. Ti benediciamo, Signore. We bless you, Lord. Is there somebody here? Somebody, I think it was you, your partner left you. C'è qualcuno qui? Il tuo fidanzato o fidanzata ti ha lasciato. And it was devastating. Ed è stato devastante. And it changed your life. E ha cambiato la tua vita. And even though on one level you seem happy. E anche se ad un livello tu sembri star bene, felice. It's like you're afraid of getting close to somebody again. È un po' come che tu, se tu avessi paura di avvicinarti ancora una volta a qualcuno. You long for a deep relationship, but it's like, oh my goodness, I can't go through that pain again. Tu hai il desiderio di avere una relazione profonda, ma hai paura di, e ti dici no, non posso rischiare di vivere da capo quello che ho vissuto. And I think during this morning you were feeling that. E penso che proprio questa mattina tu avevi questo tipo di sentimento. And you were thinking, I just don't know that I can open my heart again. E stavi pensando, e hai pensato, non lo so se posso aprire veramente il mio cuore a qualcuno da capo. Jesus is here. Gesù è qui. And he wants to set you free. E lui ti vuole liberare. Be brave if you can. Sii coraggioso se puoi. Where are you? Dove sei? I just love us to pray for you. Io vorrei che si pregasse per te. No one's going to embarrass you. Nessuno ti metterà in imbarazzo. But he wants. Okay. Well done for being brave. Grazie per il tuo coraggio. He loves you very much. Lui ti ama tanto. And your life is not over. It's okay. E la tua vita non it's è okay. finita. Pray for her. Va bene. It's okay. Don't worry about the tears. Non ti preoccupare se ti viene da piangere. Jesus set her free. Gesù liberala. And he's going to give you what you long for. E lui ti darà quello che il tuo and cuore desidera. And the past does not need to affect the future. E il passato non deve avere conseguenze sul tuo futuro. His heart for you is good. Perché il cuore di Dio per te è buono, è pieno di bontà. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Was that you as well? All right, Benne. And if there's a lady who can come and pray as well, just come, please. Can someone, that's it. Do you see how kind Jesus is? This is stuff that was kept inside, and Jesus knows, and he wants them to know he loves them. Vedete quanto è buono Dio? Questo è tutto quello che c'era, era sotterrato nei cuori, e Dio lo sta facendo uscire perché ci vuole far capire che lui ci ama. And he wants to bring them hope. E lui vuole portare speranza. He's wanting to give out jumpers this morning. È un po' come se lui volesse darci le sue felpe. There is a couple here. There are things that there is something that you have longed for years, and you have prayed for years, but it has not happened yet. C'è una coppia qui. E voi come coppia avete desiderato qualcosa per anni e anni, e ancora non è successo. And you said to each other, maybe we should stop praying. E vi siete detti, forse non dobbiamo pregare più per questo. Maybe it's too late. Forse è troppo tardi. Maybe this will never happen. Forse non succederà mai più. And God wants to speak to you and give you hope. E Dio vuole parlarvi e vuole darvi speranza. Because it's like something died in your heart. Perché è un po' come se qualcosa fosse morto nel vostro cuore. Be brave. Sii coraggioso. Where are you? Dove siete? Are you here? Is that you too? All right, my friends. All right, Jesus, Jesus, Jesus, meet with them. Gesù, incontrali. Come on, others, pray, pray. Coraggio, pray. Preghiamo, preghiamo per questa coppia. One or two leaders, please. Che due leader possano avvicinarsi. And Lord, give them. I pray that you would do a miracle. E io prego, Signore, che tu possa fare un miracolo. I pray you would do a miracle. Che tu possa fare un miracolo. And Lord, you would give them the desire of their hearts. E tu puoi dar loro ciò che il loro cuore desidera. And Lord, do what they can't do. You specialize. E Gesù, tu fai quello che loro non possono. Thank you, Lord. E lo sai fare. Send your spirit. Manda il tuo spirito. Send your spirit. Manda il tuo Now, spirito. Now let the pain come out. Ora che il dolore esca. This is a safe place. Perché qui lo puoi far uscire. He loves you. Lui ti vi ama. He loves you. Vi ama. He loves you. Vi ama tanto. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We're gonna begin to worship now. Okay, incominceremo. We're gonna still pray. Be open to Him. Before we go, I think the time has probably gone very late, I fear, but let's just worship for a little while. Quindi continueremo a pregare. Sia aperto alla voce dello Spirito Santo. Mentre adoriamo, continuiamo a pregare, Chiesa. God is here. Perché Dio è qui. God is here, and that is all that matters. Dio è qui, e questa è l'unica cosa importante.